edizione. E in questo mercoledì, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Prima edizione la apriamo facendo un po' di zapping TV. Non so chi di voi ha sentito ieri sera Maurizio Crozza. Beh, ve lo facciamo risentire noi. Comunque vada, sarà un Natale senza doni. Povero Cristiano Doni, ma l'avete visto quando... Ma l'avete visto quando l'hanno arrestato che stava scappando in mutande? Come direbbe Arrigo Sacchi, stava scappando con umiltà. Pensa a quel ragazzo, poteva scappare coi Rolex, così, invece no, c'aveva il pigiama del Lupin. Guarda, stava scappando con la sua Porsche, così, a 40 all'ora, scappava con discrezione. Un ragazzo che quando pensa l'hanno chiuso in cella, ha detto, tanto io sono abituato a fare il catenaccio. Ecco, guarda, quando gli hanno fatto vedere il pigiama a righe, ha chiesto, ma di che squadra è sto pigiama? 100.000 euro per falsare una partita. Scommettevano con la mafia di Singapore e incassavano con la camorra di Napoli. Ma tu pensa che giro? Ma poi perché? Sei un giovane in salute, cazzo, sei un idolo di tutti, sei ricco, c'hai tutte le ragazze che vuoi. Ma come si fa a arrivare a pensare questa mattina mi sveglio e chiamo la mafia di Singapore? Ma capite? Ma perché rovinarsi la vita in questo modo? È come se Angelina Jolie dicesse questa mattina mi sveglio e trombo con Lamberto Dini. Ma lo capite che è un assurdo? Ma che credibilità! Ma che credibilità ha il mondo del calcio? Tu mi dirai perché gli entrambienti hanno la credibilità? No. E così dunque Maurizio Crozza, rompipallone, aggiungiamo questa mattina di Gene Gnocchi dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Le indagini continuano a ritmo serrato sul calcio scommesse dopo Fantozzi, arrestati anche Fracchia e ragionier Filini. Beh, insomma, non c'è molto di che sorridere, ma così abbiamo cominciato questa mattina, anche prima edizione. Sentiamo come va il traffico e poi le prime pagine dei giornali. Prima edizione. La democrazia non è sospesa, e questo il titolo sostanzialmente fotocopia che troverete sulla maggior parte dei quotidiani oggi in edicola. Le parole sono quelle del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la citazione integrale l'avete sentita anche poco fa in GR24, è questa: solo con grave leggerezza si può parlare di sospensione della democrazia in un paese in cui nulla è stato scalfito. Una difesa a spada tratta del Presidente della Repubblica per il governo Monti. E così apre la Repubblica questa mattina: la democrazia non è sospesa, Napolitano difende il governo Monti, Fornero, servono salari più alti. La democrazia non è sospesa, Napolitano difende il governo Monti, stesso titolo, vi dicevo, fotocopia per La Stampa. Ancora, la democrazia non è sospesa, Napolitano difende il governo Monti, Il Messaggero. Leggermente diverso, ma il tema è lo stesso, per il Corriere della Sera: nessuno strappo costituzionale, Napolitano evitare lo scontro elettorale devastante. Così l'apertura, dicevamo, dei quotidiani. Un appello deciso del Presidente della Repubblica, a cui si affianca un altro appello, quello ad evitare tensioni tra il governo e i sindacati. Parole queste rivolte alla dura polemica scatenata dalle parole del ministro Elsa Fornero. Ma dalla Repubblica vi segnaliamo anche una curiosità a fianco a questa notizia: Senato, ristorante a rischio, i camerieri lo occupano, ebbene, semideserto dopo l'aumento dei prezzi. Il ristorante del Senato, di cui più volte anche sui giornali si era pubblicato menù con menù strepitosi a prezzi veramente bassissimi, i prezzi questa volta sono stati alzati ed ora è semideserto, tant'è che si pensa di licenziare i camerieri, e questo già ha innescato altre e diverse polemiche. Sempre la Repubblica va avanti sulla battaglia che è iniziato da un paio di giorni sulla evasione fiscale e sulla corruzione. Anche questa volta il dossier pubblicato oggi, la corruzione corruzione ci costa 60 miliardi ogni anno. Dossier della Corte dei Conti che conferma gli allarmi sempre più tangenti, soprattutto negli uffici pubblici nel mondo. L'Italia, come il Ghana, al quart'ultimo posto nell'Unione Europea. Così la Repubblica, e l'immagine invece a centropagina che troverete ancora della Corea, il rapporto parallelo della paura con la camera ardente del leader coreano Kim Jong-il, che durerà 12 giorni. La Stampa ha una notizia da segnalare in questo caso, riguarda la Spagna, dove crollano i tassi dei bond. L'Italia teme un nuovo sorpasso, Madrid ne pensa meglio di Roma su fisco, pensioni e banche, ma ha più del doppio di disoccupati. Ancora Italia-Spagna, un duello davvero a colpo di spread, ma gli spagnoli sembrano davvero andare meglio. Così il focus sulla Stampa. Sul Messaggero, anche qui centro pagina dedicato alle immagini che arrivano dalla Corea, e poi ancora al calcio, scommesse, ne abbiamo parlato anche poco fa. I PM indagano su 22 partite di Serie A, l'inchiesta sui movimenti anonimi, e il Messaggero vi dedica ampio spazio perché nel mirino ci sono anche gare di Roma e Lazio. Corriere della Sera, vi dicevo, nessuno strappo costituzionale, l'apertura. IVA, IMU, tasse locali, quanto costeranno le famiglie, il focus. Qui l'immagine non è della Corea ma dall'Egitto, con le donne del Cairo che sfidano il regime, migliaia in marcia in Egitto contro la violenza, ci ricorda il Corriere della Sera. Anche qui trovate la storia del ristorante del Senato. I senatori mangiano meno, camerieri cassi integrati. In realtà non è che mangino meno, ma che i prezzi sono aumentati anche al ristorante del Senato. Il Sole 24 Ore, banche, la maxi asta BCE fa il pieno, i big italiani pronti a emettere 50 miliardi di bond garantiti come collaterale, apertura un po' diversa dagli altri quotidiani. A fianco però trovate anche qui Napoletano, nessuno strappo costituzionale con la scelta di Monti. Il Secolo XIX, ultima segnalazione ancora dai quotidiani, perché apre con una notizia che trovate anche sugli altri quotidiani, ma qui è in massima evidenza. Parliamo di protesi killer al seno. Ci sono 30.000 donne a rischio, secondo un'indagine che arriva da Parigi, e l'allarme riguarda anche l'Italia. Il Secolo XIX, ma la notizia la trovate un po' su tutti i quotidiani. E una segnalazione velocemente questa mattina ve la faccio anche dalla Stampa estera, dal Wall Street Journal, un'inchiesta video, crisi del debito, 6 racconti di famiglie. Se volete ascoltarlo è abbastanza curioso. L'Unione Europea si trova ad affrontare misure di austerità, incertezza finanziaria, spiega il Wall Street Journal, che è andato a sentire in 6 paesi della zona euro 6 famiglie, mettendo a confronto la crisi nei vari paesi europei. Una segnalazione abbastanza gustosa. Altra segnalazione invece ve la diamo noi questa volta, parliamo ancora di crisi ma in maniera un po' diversa, perché mentre si parla di acquisti natalizi si parla già anche di saldi anticipati ancora di più quest'anno per cercare di rilanciare i consumi. Partiranno il 5 gennaio in quasi tutte le città, partiranno il 6 gennaio solo a Roma, scavallando l'epifania. A Palermo scatteranno addirittura dal 2 gennaio. Quest'anno però, dicevamo, i conti si devono fare soprattutto dalla crisi, e allora Anna Marino ha sentito Elio Lannutti, presidente Adusbef. L'auspicio non va nella direzione che noi avevamo chiesto, ossia bisognava anticipare questi saldi anche per poter rilanciare questi consumi, perché se le famiglie che hanno per la prima volta le tredicesime decurtate, per la prima volta in 20 anni, sono diminuite, sono preda di una crisi economica senza precedenti, e quindi anche perché non c'è fiducia, si risparmia sugli abiti, sulle calzature, su questi prodotti, allora tanto vale anticipare i saldi e liberalizzarli, perché resta molto sbagliato il fatto che si possa ritenere che i consumatori comperino prima di Natale prodotti che sono maggiorati del 30, 40, anche del 50%, quei prodotti che possono essere comprati a saldo con uno sconto del 30-40%, e nello stesso interesse dei commercianti. Per quanto riguarda le liberalizzazioni, c'è anche quella relativa agli orari, 24 ore su 24 i negozi aperti. Potrebbe essere una strada. strada, però io voglio ricordare che l'Italia non è l'America, dove c'è una consuetudine di negozi che sono aperti 24 ore su 24, bisogna ragionare bene su questo, non vorremmo che questa liberalizzazione selvaggia portasse conseguenze sui prezzi. Comunque la pensiate, una discussione sicuramente solo all'inizio. Voltiamo ancora pagina, andiamo a Genova perché ieri sera è andata in scena un appuntamento molto speciale e ce lo racconta Laura Bettini. E questo è il gran finale del concerto di cui parlavi, Anna. Una mano per Genova si è tenuto ieri sera nel capoluogo ligure per raccogliere fondi e aiutare chi è stato colpito dall'alluvione disastrosa del 4 novembre scorso. Un concerto che era stato organizzato da Gino Paoli, condotto da Pippo Baudo, e ha visto la partecipazione di nomi famosissimi nel panorama dello spettacolo italiano di ieri e di oggi. Si va da Renzo Arbore a Mario Biondi, poi Cristiano De André, Beppe Grillo, che avete tra l'altro sentito cantare qui in Biboppa Lula, e Mattia Bazzar, Danilo Rea, Ornella Vanoni e Renato Zero. Sentiamo ancora qualche momento. Clima di festa ma anche di ricordo per quello che è accaduto è arrivato il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che ha detto proporrà al governo un decreto affinché si possa detrarre fiscalmente quanto viene versato per il progetto denominato Telethon Verde. Ci vuole un fondo nazionale per la prevenzione, ha affermato Clini, e spero che Telethon Verde possa appunto essere scaricata dalle tasse. Anna. Prima edizione. Ed è il momento delle inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E il 21 dicembre vi parla Daniele Biacchesi. Ventotene, un'isola meravigliosa nel mezzo del Mar Tirreno, densa di ricordi tristi come il confino degli oppositori al regime fascista e di paesaggi straordinari di mare. Ma la bellezza di quest'isola è in pericolo. Il reportage di Valentina D'Amico. A 2 ore di traghetto da Formia, in provincia di Latina, Ventotene, la più piccola isola abitata delle Pontine nel Mar Tirreno, è un gioiello naturalistico e archeologico. Composta quasi interamente di tufo, si sta di fatto sgretolando. Nell'arco di un anno e mezzo si sono contate almeno 3 frane sull'isola. La prima, il 20 aprile del 2010, costò la vita a 2 ragazzine romane di 14 anni, schiacciate da un costone di roccia tufacea sulla spiaggia di Cala Rossano, di fronte al porto. L'ultima frana, il 14 ottobre scorso, proprio a pochi metri di distanza dalla tragedia, ha ostruito l'accesso alla Grotta del Passero. Un altro crollo c'era stato in agosto. Bella e fragile, così ormai descritta Ventotene dalla stampa locale, che periodicamente lancia l'allarme del grave dissesto idrogeologico. L'amministrazione comunale ha ben presente il problema. Ad ogni crollo procede a transennare l'area, a bloccare il traffico veicolare, oltre ad aver disposto il divieto di attracco per le imbarcazioni già da un anno dalla morte delle ragazze. La stessa amministrazione, però, a pochi metri di distanza dalle frane, intende costruire un mega tunnel di circa 300 metri da scavare proprio nella roccia tufacea per facilitare, dice il sindaco Giuseppe Assenso, il transito di auto e camion e meglio collegare il centro del paese al porto. Gli ambientalisti di WWF, Legambiente e Lipu, gli abitanti sono sul piede di guerra. L'isola di Ventotene, spiegano, ha poco più di 1,5 km² di estensione, uno sviluppo stradale di 3 km appena. Se nei mesi estivi la popolazione arriva a toccare i 5.000 abitanti, per 10 mesi l'anno ci vivono appena 700 persone. Non si vede la necessità di un'opera inutile e costosa. Un'opera che peraltro contrasta fortemente con il progetto Isola Emissioni Zero, voluto dalla vecchia giunta e finanziato nel 2006 con 1 milione di euro dalla Regione Lazio. Un progetto che avrebbe dovuto trasformare Ventotene in un cantiere sperimentale della mobilità alternativa per preservare il delicato equilibrio dell'isola e prevedeva tra l'altro la chiusura al traffico automobilistico, l'avvio del car sharing ecologico con autoveicoli elettrici riforniti da tettoie fotovoltaiche. Ciò che rimane oggi di quel progetto sono 7 pulmini elettrici per il trasporto di turisti e residenti, di cui ancora la regione sta pagando il canone. L'attuale giunta preferisce tornare alle vecchie logiche, denuncia Daniele Coraggio, consigliere d'opposizione. Circa 5 milioni di euro sono richiesti per la costruzione del tunnel. Nel bando pubblicato il 22 agosto scorso si parla di perforazioni di roccia, micropali, diaframmi, cemento armato. Riccardo Caniparoli, geologo esperto in valutazione di impatto ambientale e dissesto idrogeologico, da mesi denuncia: i lavori di realizzazione non faranno altro che rendere ancora più fragile l'isola, accentuando il rischio frane. In pericolo un patrimonio archeologico risalente alla Roma imperiale, resti di ville, acquedotti, il porto antico, le peschiere modellate nelle rocce vulcaniche. Bruno Panuccio, padre di una delle 2 ragazze morte schiacciate dalla frana un anno fa, in una lettera ai giornali Draghi, all'indomani dell'ultimo crollo, ha duramente commentato: serve un pizzico di buonsenso e ora che si investono i soldi di noi contribuenti nella sicurezza. Era Valentina D'Amico su Radio 24, la prima edizione Italia in Controluce. Torniamo oggi 13.30 a Radio 24. Torniamo in studio, 6:37 minuti, 30 secondi in questo istante. Ancora buona giornata da Anna Migliorati. Cominciamo ora la seconda giornata della nostra programmazione speciale dedicata alla crisi. Radio Day, speciale crisi. E allora parliamo in questo spazio della seconda giornata del Radio Day di Euro: quanto ha pesato sulla crisi, che futuro avrà. Io saluto il professor Alessandro Carretta, presidente AIDEAS, l'Accademia degli Economisti Italiani. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E allora entriamo subito nel cuore della questione. Mario Draghi ha detto che dall'euro non si esce, è un processo irreversibile. È d'accordo? Sono certamente d'accordo, perché l'euro rappresenta una condizione imprescindibile per la difesa della stabilità monetaria e anche economica sia in Europa sia in Italia, quindi certamente sono d'accordo con le parole di Draghi. Senta, l'euro secondo lei ci ha protetto? L'unità monetaria è stato un elemento di forza o di debolezza in questa crisi? Anche perché in fin dei conti è una moneta anomala, perché l'abbiamo detto più volte, non ha alle spalle una politica monetaria unica. Ma insomma, in tutto questo ci ha protetto l'euro? Ma a mio giudizio l'euro, con ovviamente il comodo senno del poi, ci ha comunque protetto. Tenga presente che c'è un lavoro recente di Banca d'Italia sulla convergenza dei sistemi finanziari, che fa vedere come i paesi dell'euro hanno mostrato nel tempo, al di là di questa crisi, una progressiva convergenza della propria situazione finanziaria, quindi sono diventati più omogenei e più compatti. E questa convergenza monetaria ha avuto effetti positivi anche sulla convergenza economica, quindi certamente l'euro ha costituito, non solo dal punto di vista monetario, che qualcuno poi attribuisce confinato a Bruxelles o a Francoforte, ma anche dal punto di vista economico, ha costituito un fattore di protezione anche dei mercati dove si scambiano beni e servizi. Lei ha parlato di Bruxelles, io le faccio i nomi di altre città, perché da una parte ci sono i veti incrociati di Berlino piuttosto che di Londra, dall'altra parte ci sono l'Italia o la Grecia in difficoltà, invece chiamate a rimettere a posto i conti. Chi sarà più decisivo per uscire dalla crisi? Ma la crisi in realtà ha riguardato tutti i paesi e non possiamo dimenticare, nella visione che stiamo in qualche modo esplorando, anche il ruolo degli Stati Uniti, perché paradossalmente gli Stati Uniti sono stati colpiti dalla crisi finanziaria in misura maggiore rispetto all'Europa. Ricordiamo che le banche che sono state salvate negli Stati Uniti sono quasi 1.400, mentre in Europa i salvataggi delle banche hanno riguardato poco più di 150 banche e anche gli importi sono stati ben diversi e superiori nel caso degli Stati Uniti. Quindi è difficile fare poi, a mio giudizio, ragionamenti specifici concentrando la crisi solo su alcuni paesi. La stessa Germania ha avuto nell'ambito delle proprie banche alcuni problemi legati in particolare ad alcune tipologie di casse di risparmio, e ne è uscita conferendo mezzi propri che l'Italia non ha conferito. Quindi a mio giudizio il problema è complessivo, non riguarda solamente l'Italia o altri paesi decisamente diversi dall'Italia come la Grecia, ma riguarda l'Europa nel suo complesso. Il vero problema non è di tipo finanziario monetario, ma è un problema, come tutti dicono i commentatori più autorevoli, è un problema di governo unitario, economico e fiscale dell'Europa, più che un problema di governo dell'euro. E di singoli paesi. Torniamo a Draghi, che ha detto però anche un'altra cosa, vale a dire che le banche europee sono a corto di capitali. Lo sapevamo già, peraltro, però a questo punto la domanda è: passa anche da qui l'uscita della crisi, da questo ago stretto? Le banche europee certamente hanno fabbisogni di capitale, sia pure molto differenziati, anche in relazione all'uscita dalla crisi. Ci sono già banche che sono state ampiamente risanate, sono tornate sul mercato, e banche che ancora sono in una fase difficile di risanamento. Il superamento della crisi e quindi di irrobustimento dell'euro passa certamente anche attraverso il completamento di questi processi di salvataggio, ma ancora di più passa attraverso un riassetto della regolamentazione finanziaria, oltre che attraverso altri elementi di tipo reale. Quindi Basilea 3 va benissimo. Diversi studi indipendenti hanno dimostrato che l'impatto depressivo di Basilea 3 è davvero contenuto, ma forse occorre mettere a punto altri aspetti della regolamentazione. Mi riferisco ai principi contabili internazionali e al tema spinoso del rating. Grazie, naturalmente avremo ancora ampio spazio anche oggi per parlare di tutti questi temi. Nel frattempo però io ringrazio il professore Alessandro Carretta per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. E dunque proseguirà oggi il nostro Radio Re Day, dicevamo, con le parole della crisi, subito dopo i nostri giornali radio e poi numerosi ospiti nel corso della giornata. Ancora programmazione speciale oggi per il Radio Day. Nel frattempo gli aggiornamenti, perché crisi significa anche manovra dura per l'Italia. Allora, che è successo nella notte? Le commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato la manovra senza apportare modifiche al testo licenziato dalla Camera. Poco prima di mezzanotte è arrivato il sì. Questa mattina l'appuntamento è per le 9.30, quando il provvedimento comincerà il suo esame al Senato. Nel corso della seduta il governo ha accolto come raccomandazioni una ventina di ordini del giorno, su temi però su cui si era espressa favorevolmente anche la Camera con altrettanti ordini del giorno, quindi tutto prosegue per il momento secondo programma. Vedremo oggi che succederà. Altro aggiornamento: crisi significa anche che fanno gli altri paesi per la paura di quel che accade in Europa. Un istante fa, notizia appena battuta dalle agenzie, la Bank of Japan ha tagliato il suo giudizio sull'economia nipponica, osservando che la ripresa dell'attività economica è in fase di pausa per il rallentamento delle economie estere, vale a dire soprattutto quella europea. I tassi però in Giappone sono fermi allo 0,1%, non ci saranno misure ulteriori malgrado i timori sul debito in Europa, così la Banca del Giappone. Prima edizione. L'inno alla gioia. Saranno queste le note a sancire questa sera il piccolo miracolo per Firenze. A 200 metri dal vecchio comunale, che è in vendita, aprirà questa sera la città della musica di Firenze. È stata chiamata Teatro dell'Opera, ma la verità è che si allargherà a diversi generi. È la nuova casa del Maggio Fiorentino. Ospiterà lirica, danza, un piccolo miracolo, dicevamo, perché è stata realizzato in tempi davvero record. Ad inaugurarlo questa sera, con l'inno alla gioia appunto, con tutti i massimi onori, alle 20.30 sono attesi il presidente Giorgio Napolitano e diversi ministri. Noi però ve lo anticipiamo, perché Adriana Fracchi ha sentito per noi la sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Francesca Colombo. L'idea di dotare Firenze di un nuovo teatro dell'opera nasce tanto tempo addietro, è stato un sogno espresso dal nostro direttore principale, il maestro Meta, tanti anni fa. E 2 anni fa, finalmente, in occasione delle celebrazioni, della pianificazione per le celebrazioni dell'Unità d'Italia, ha avuto, diciamo, il consenso e i finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e diciamo in tempi record, perché veramente in soli 2 anni inaugureremo il nostro teatro. Felicissima naturalmente di aver trovato questo dono, perché in realtà io sono arrivata da un anno, anche perché l'apertura di un teatro d'opera è davvero una cosa meravigliosa, un segnale di fiducia nel futuro, un simbolo proprio che va difeso a tutti i costi, e Firenze aveva proprio bisogno di un nuovo spazio, un polo culturale, perché questo nuovo teatro avrà 3 sale, una dedicata all'opera, una ai concerti, una cave all'aperto, in una cornice meravigliosa. cosa che, a parte Firenze, ma proprio collocata di fianco alla stazione Leopolda e a due passi dal Parco delle Cascine, e quindi siamo veramente emozionati e felicissimi, anche perché della prova che abbiamo fatto ha un'acustica meravigliosa, e veramente emozionatissimi, non vediamo l'ora di condividere questa emozione con tutti i fiorentini e tutto il pubblico numeroso che sta correndo a tutta Europa per sentire e per partecipare a questo evento meraviglioso. Il complesso è esteso su 57.000 metri quadrati e ospiterà appunto non soltanto lirica e balletto, ma tutti i generi musicali. Il maestro Metta dice ad eccezione del rock and roll. Ma perché? Vedremo, alla cavea si presterà, poi abbiamo una piazza meravigliosa che circonda la torre scenica, e sicuramente è un polo, noi abbiamo già in questa, nella linea artistica che diciamo che abbiamo voluto dare in queste celebrazioni che partono dal 21 e finiscono il 1° di gennaio 2012, abbiamo voluto dare già un sapore di quello che noi pensiamo sia e debba essere la linea artistica di questa nuova casa, quindi non solo classica, non solo opera lirica, sinfonica e balletto, ma anche jazz. Infatti avremo Bollani il 22, anche rock e pop, perché il 31 in realtà, dopo un galà e una cena in tre atti, diciamo per arrivare a mezzanotte per il brindisi, poi seguirà una festa danzante con musica che dal jazz poi evolverà fino al rock e pop e a techno addirittura, quindi veramente un polo che dovrà essere attivo e vivo, un centro di aggregazione per la città, per le famiglie tutti i giorni, e quindi con questo ne abbiamo già voluto far vedere, diciamo, quello che sarà poi il nostro sforzo artistico nel programmare gli spettacoli in questa meravigliosa sede. Però appunto i lavori non sono finiti. Sì, mancano finanziamenti per la torre scenica, che è una condizione sine qua non il maggio musicale si possa trasferire. Io veramente mi auguro che la politica e il governo, nonostante un periodo di crisi che tutti sappiamo e tutti rispettiamo naturalmente, però non si distragga, perché un'opera lasciata così per noi è impossibile trasferirci, perché non ci sono le sale prova e soprattutto non c'è quello che è il movimento scenico, e quindi sarebbe impossibile fare quello che per noi è il nostro, veramente la nostra ragione d'essere, cioè fare l'opera lirica. E quindi il finanziamento che manca, diciamo, dovrebbe essere confermato per far sì che, come è programmato, nel novembre 2012 il maggio possa veramente trasferirsi in questo nuovo teatro e tenere alto il nome dell'Italia e della cultura italiana in tutto il mondo. Grazie ad Adriana Fracchi. Allora, grazie come sempre ogni mattina a Peter Bescapè e Viola Bottoni. Noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24. Un buon mercoledì da Anna Migliorati. Prima edizione.